ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte. Traduzione di Margherita Giacobino. A una notte di pioggia era seguita una mattinata nebbiosa, mezzo gelo e mezza brina, e l'acqua che scorreva giù gorgogliando dalle colline formava ruscelli che attraversavano il nostro sentiero. Avevo i piedi completamente bagnati, ero depressa e arrabbiata, proprio dell'umore giusto per apprezzare in pieno queste cose sgradevoli. Entrammo nella fattoria passando dalla cucina per accertarci che il signor Heathcliff fosse davvero assente. Io, infatti, non mi fidavo molto delle sue parole. «Sei tu, signorina Cathy?» disse Linton, sollevando la testa dal bracciolo della grande poltrona sulla quale era sdraiato. «No, non baciarmi! Mi togli il fiato, povero me! Papà me l'ha detto che saresti venuta», continuò, dopo essersi un po' ripreso dall'abbraccio di Catherine. Lei nel frattempo si era fatta da parte con un'espressione dispiaciuta. «Ti spiace chiudere la porta? L'hai lasciata aperta e quelle odiose creature continuano a non portarmi altro carbone per il fuoco. Fa così freddo!» Io ravvivai la brace e andai a prendere una palata di carbone. Il malato si lamentò che lo stavo coprendo di cenere, ma non lo rimproverai perché aveva una brutta tosse e un aspetto sofferente e febbricitante. «Beh, Linton», mormorò Catherine quando la fronte di lui si fu spianata, «sei contento di vedermi? C'è qualcosa che posso fare per te?» «Perché non sei venuta prima?» disse. «Avresti fatto meglio venire, invece di scrivere. Mi stancava terribilmente scrivere quelle lunghe lettere. Avrei preferito parlare. Adesso non sono più in grado di parlare, né di fare altro. Chissà dov'è Zilla. Non vuole?» E qui si rivolse a me. «Andare in cucina a vedere?» Non avevo ricevuto alcun ringraziamento per avergli ravvivato il fuoco e, non avendo voglia di correre avanti e indietro ai suoi ordini, risposi: «Non c'è nessuno in cucina, tranne Joseph». «Ho sete!» esclamò lui tutto agitato, girandosi dall'altra parte. «Da quando papà è partito, Zilla non fa altro che perdere tempo a Gimmerton. Che situazione penosa! E io sono costretto a scendere qui sotto perché hanno deciso che se sono di sopra non riescono a sentirmi. Suo padre si cura di lei, signorino Linton?» chiesi, vedendo che gli slanci affettuosi di Catherine erano stati frenati. «Si cura di me. Perlomeno fa in modo che quelli si curino un po' meglio di me», esclamò. «Che disgraziati! Lo sai, signorina Linton, che quel brutto di Hareton mi ride in faccia? Lo odio! Anzi, li odio tutti quanti. Sono creature odiose!» Cathy si mise alla ricerca di un po' d'acqua. Trovò una brocca nella credenza, riempì un bicchiere e glielo portò. Lui le chiese di aggiungere un cucchiaio di vino e, dopo aver bevuto qualche sorso, sembrò più tranquillo e le disse che era molto gentile. «E sei contento di vedermi?» tornò a chiedere lei, felice di scorgere un vago accenno di sorriso. «Sì, lo sono. È una bella novità sentire una voce come la tua», rispose lui. «Ma mi sono tanto arrabbiato perché non venivi. E papà giurava che era colpa mia e mi ha detto che ero un piccolo incapace, inconcludente e inutile. Ha detto che tu mi disprezzavi e che se lui fosse stato al mio posto, a quest'ora sarebbe stato più padrone della Grange di tuo padre. Ma tu non mi disprezzi, vero, signorina? Per favore, chiamami Catherine o Cathy», lo interruppe la mia padroncina. «Se ti disprezzo? Ma no! Dopo papà e Ellen sei la persona che amo di più al mondo. Però non mi piace il signor Heathcliff e non oso venire quando lui sarà tornato. Starà via per molti giorni?» «Non molti», rispose Linton. «Ma da quando è la stagione della caccia è cominciata, va spesso nella brughiera. E mentre lui non c'è, tu potresti passare qualche ora con me. Dimmi che lo farai. Con te non credo proprio che sarei irritabile, perché tu non me ne daresti motivo e saresti sempre disposta ad aiutarmi, non è vero?» «Sì», disse Catherine, accarezzandogli i lunghi e morbidi capelli. «Se soltanto potessi ottenere il permesso di papà. passerei la metà del mio tempo con te. Come sei carino, Linton. Vorrei che tu fossi mio fratello. In tal caso, mi vorresti bene quanto ne vuoi a tuo padre? Disse lui allegramente. Ma papà dice che, se tu fossi mia moglie, vorresti più bene a me che a lui, o a chiunque altro. Allora preferirei che tu fossi mia moglie. No, non amerò mai nessuno più di papà, rispose lei seriamente. E può capitare che marito e moglie si odino. Ma questo non accade tra fratelli e sorelle. E se tu fossi mio fratello, vivresti con noi e papà ti vorrebbe bene, come vuole bene a me. Linton negò che ci si potesse odiare tra marito e moglie, ma Katie affermò che era vero e, come prova della sua superiore saggezza, gli portò l'esempio dell'odio del padre di lui per la zia Isabella. Io cercai di frenare quella lingua sconsiderata, ma non ci riuscii e tutto quello che lei sapeva venne fuori. Il signorino Linton, estremamente contrariato, asserì che la sua versione dei fatti era falsa. «Me l'ha detto papà, e papà non dice bugie», rispose lei con impertinenza. «Mio padre disprezza il tuo», gridò Linton. «Dice che è uno stupido e un vigliacco. Tuo padre è un uomo perfido», ribatté Catherine, «e tu sei molto cattivo se osi ripetere quello che dice lui. Se non fosse stato perfido, non avrebbe costretto la zia Isabella a lasciarlo». «Non l'ha lasciato», disse il ragazzo, «e tu non devi contraddirmi». «Sì che l'ha lasciato», gridò la mia padroncina. «Bene, allora adesso ti dirò un'altra cosa», tornò alla carica Linton. «Tua madre odiava tuo padre. Ecco, sei contenta?» «Oh!» esclamò Catherine, troppo arrabbiata per continuare. «E amava mio padre», aggiunse lui. «Piccolo bugiardo! Ti odio ora!» ansimò lei, facendosi rossa dalla collera. Lo amava!» cantilenò Linton, lasciandosi ricadere nella sua poltrona e gettando indietro la testa per godersi l'agitazione di lei che gli stava alle spalle. «Zitto, signorino Linton!» dissi. «Anche questo glielo ha raccontato suo padre, suppongo!» «No!» «E sta zitta tu!» mi rispose. «Lei lo amava, Catherine, lo amava!» Katie fuori di sé diede un violento spintone alla poltrona, così che lui ricadde contro il bracciolo. Immediatamente gli venne un attacco di tosse soffocante che presto pose termine al suo trionfo. L'attacco durò così a lungo che perfino io mi spaventai. Sua cugina pianse disperatamente e, anche se non disse nulla, era spaventata per il guaio che aveva combinato. Lo tenni tra le braccia finché l'attacco fu passato. Poi lui mi respinse e in silenzio appoggiò la testa sul bracciolo. Anche Catherine allora soffocò i singhiozzi. Si sedette di fronte a lui e fissò solennemente il fuoco. «Come si sente adesso, signorino Linton?» domandai dopo una decina di minuti di attesa. «Vorrei che lei si sentisse così», rispose. «È stata crudele e dispettosa. Ayrton non mi mette mai le mani addosso, mai. E oggi stavo meglio. E adesso...» La sua voce si spense in un gemito. «Io non ti ho messo le mani addosso», protestò Katie, mordendosi le labbra per evitare un altro scoppio di collera. Linton prese a sospirare e a lamentarsi come se soffrisse immensamente. Continuò per un quarto d'ora, con l'evidente intenzione di addolorare sua cugina, perché non appena sentiva un singhiozzo soffocato di lei, la sua voce si caricava di nuovo dolore e nuovo pathos. «Mi dispiace di averti fatto star male, Linton», disse infine lei, disfatta. «Ma a me non avrebbe fatto nulla una spintarella così, e non credevo che per te, invece...» «Non stai troppo male, vero, Linton? Non farmi andare a casa con l'idea che ti ho fatto del male. Rispondimi, dimmi qualcosa». «Non posso parlarti», mormorò lui. Mi hai fatto stare così male che non riuscirò a dormire per tutta la notte e la tosse mi soffocherà. Se l'avessi tu, sapresti che cosa vuol dire. Ma mentre io sarò in agonia, tu dormirai tranquillamente e non avrò nessuno vicino. Ti piacerebbe passare delle notti così paurose? E preso dalla compassione per se stesso, cominciò a lamentarsi ad alta voce. «Visto che è abituata a passare notti terribili», dissi, «non sarà la signorina a disturbarle il sonno. Sarebbe stato male lo stesso, anche se la signorina non fosse mai venuta. Comunque, non la disturberà più. E forse lei si tranquillizzerà quando ce ne saremo andate». «Devo andarmene?» chiese Catherine afflitta, chinandosi su di lui. «Vuoi che me ne vada, Linton?» «Ormai il male è fatto», rispose lui irritato, ritraendosi da lei. «E puoi solo peggiorare la situazione, facendomi venire anche la febbre». «Beh, allora me ne devo andare?» chiese di nuovo lei. «Lasciami tranquillo, almeno», disse lui. «Non sopporto di sentirti sempre parlare». Lei indugiò per un bel po' e non si lasciò convincere ad andare via. Ma dal momento che lui non la degnava di uno sguardo né di una parola, alla fine si diresse verso la porta ed io la seguii. Un grido ci richiamò. Linton era scivolato a terra davanti al camino e si contorceva in preda a uno di quegli attacchi da bambino viziato e insopportabile, deciso a dare il massimo fastidio possibile. Valutai che sarebbe stata una follia, visto il suo atteggiamento, cercare di assecondarlo. Ma Catherine non la pensò così. Corse da lui spaventatissima, si inginocchiò e pianse e lo consolò e supplicò finché lui tacque, per mancanza di fiato, non per il rimorso di averle causato tanta pena. «Lo metterò sul sofà», dissi, «così potrà contorcersi come e quando vuole. Non possiamo stare qui a guardarlo. Spero che si sia convinta una volta per tutte, signorina Cati, di non essere lei la persona che può fargli del bene e che le sue condizioni di salute non derivano affatto dal suo amore per lei. Bene, eccoci sistemati. Venga via. Non appena si renderà conto che non c'è più nessuno a preoccuparsi delle sue bizze, si metterà tranquillo». Lei gli mise un cuscino sotto la testa e gli offrì dell'acqua che lui rifiutò. Poi si agitò sul cuscino, quasi fosse duro come una pietra o un pezzo di legno. Lei cercò di sistemarglielo meglio. «Non va bene», disse lui. «Non è abbastanza alto». Catherine ne portò un altro e lo mise sopra il primo. «Così è troppo alto», mormorò quella creatura insopportabile. «Come devo metterlo allora?» domandò lei disperata. Lui si sollevò e la cinse con le braccia mentre era inginocchiata accanto al divano e si appoggiò sulla sua spalla. «No, no, così non va», dissi. «Bisogna che si accontenti del cuscino, signorino Linton. La signorina le ha già dedicato fin troppo tempo. Non possiamo restare 5 minuti di più». «Ma sì che possiamo», ribatté Cati. «Ora sarà buono e paziente. Sta cominciando a capire che il mio dolore sarà molto più grande del suo stanotte, se pensassi che la mia visita lo ha fatto peggiorare. E poi non oserei più venire a trovarlo. Di la verità, Linton, perché se ti ho fatto del male non devo più venire». «Devi venire per curarmi», rispose lui. «Devi venire proprio perché mi hai fatto del male. Lo sai che mi hai fatto molto male? Non eri in queste condizioni quando sei arrivata, non è vero? Ma è stato lei a peggiorare la situazione, mettendosi a piangere e agitandosi in quel modo», dissi. «Non è tutta colpa mia», disse sua cugina. «Comunque, adesso saremo amici. E tu mi vuoi? Vuoi davvero vedermi di tanto in tanto?» «Te l'ho detto che voglio», rispose lui con impazienza. «Siediti sul divano e io appoggerò la testa sulle tue ginocchia». È così che faceva la mamma, per interi pomeriggi. «Devi stare molto ferma e non parlare. Ma se sei capace, puoi cantare una canzone o recitarmi qualche bella ballata lunga e interessante. Oppure una storia. Ma preferirei una ballata. Comincia». Catherine gli ripeté la più lunga che sapeva. Tutti e due furono enormemente soddisfatti di questo modo di passare il tempo. Linton ne volle sentire un'altra, e poi un'altra ancora, nonostante io mi opponessi con forza, e così andarono avanti, finché l'orologio batté mezzogiorno, e sentimmo nel cortile Hareton che tornava a casa per il pranzo. «E domani, Catherine, verrai domani?» chiese il giovane Linton, tenendola per il vestito mentre lei si alzava controvoglia. «No», risposi io, «né domani né il giorno dopo». Lei però gli diede evidentemente ben altra risposta, perché la fronte di lui si spianò mentre lei si chinava per sussurrargli qualcosa all'orecchio. «Se ne ricordi, signorina, che domani non ci andrà», cominciai non appena fummo fuori da quella casa. «Non se lo sogna nemmeno, vero?» Lei sorrise. «Oh, ci penserò io», proseguì. «Farò riparare quella serratura e non c'è altra via per cui possa scappare». «Posso scavalcare il muro», disse ridendo. «La Grange non è una prigione, Ellen, e tu non sei la mia carceriera. Inoltre, ho quasi 17 anni, sono una donna, e sono certa che Linton si riprenderebbe in fretta se fossi io a curarlo. Sono più vecchia di lui, sai, e più saggia. Sono meno infantile, non trovi? Basterà prenderlo per il verso giusto e farà come gli dico. È così dolce e carino quando è buono. Lo coccolerei tanto se fosse mio. Non ci sarebbero litigi una volta che ci conoscessimo bene, non ti pare? Non ti piace, Ellen? Piacermi? Esclamai. Quell'affarino malaticcio e pestifero che ha raggiunto a stento l'adolescenza? Fortunatamente, come ritiene il signor Heathcliff, non arriverà a 20 anni. C'è da chiedersi se riuscirà a vedere la primavera. E non sarà una gran perdita per la famiglia quando se ne andrà. È stata una fortuna per noi che il padre se lo sia preso. Se fosse stato trattato con più indulgenza, sarebbe diventato ancora più egoista e più noioso. Sono felice che non ci sia la minima possibilità che diventi suo marito, signorina Catherine. A queste parole lei si fece tutta seria. Sentir parlare della morte di lui con tanta leggerezza feriva i suoi sentimenti. «È più giovane di me», rispose dopo una lunga pausa di riflessione, «e dovrebbe vivere più a lungo. E sarà così. Finché io vivo, deve vivere anche lui. Adesso non sta peggio di quando è arrivato per la prima volta qui al nord. Di questo ne sono certa. È solo un raffreddore che lo tormenta, lo stesso che ha papà. Tu dici che papà guarirà, e perché non dovrebbe guarire anche lui? Mi ascolti bene, signorina, e badi che manterrò la promessa. Se tenta di andare un'altra volta a Cime Tempestose, con me o senza di me, informerò il signor Linton. E a meno che lui non dia il consenso, l'amicizia con suo cugino non deve essere ripresa». «È già stata ripresa», mormorò Catherine imbronciata. «E allora non deve continuare». «Vedremo», mi rispose. E spronò il cavallo al galoppo, lasciandomi ad arrancare dietro di lei. Arrivammo tutte e due a casa in tempo per il pranzo. Il padrone pensava che fossimo andate a spasso per il parco e perciò non fece domande sulla nostra assenza. Non appena entrata, mi affrettai a cambiarmi le calze e le scarpe bagnate, ma ormai, con tutto il tempo che ero rimasta al freddo a Cime Tempestose, il danno era fatto. La mattina dopo non mi alzai dal letto e per 3 settimane non fui in grado di attendere ai miei doveri. Una disgrazia che non mi era mai capitata prima, e sia ringraziato il cielo, non mi capitò più in seguito. La mia padroncina si comportò come un angelo, tenendomi compagnia e rallegrando la mia solitudine. Non appena usciva dalla stanza di suo padre, Catherine compariva al mio capezzale. La sua giornata veniva divisa tra noi due. Non sprecava neppure un minuto per sé, trascurava i pasti, lo studio e il gioco, ed era la più amorevole delle infermiere. Che cuore buono doveva avere per concedere tanto tempo a me, pur con tutto il bene che voleva a suo padre. Ho detto che le sue giornate erano divise tra noi due, ma il padrone andava a letto presto e io di solito non avevo più bisogno di nulla dopo le 6 di sera. Le serate, quindi, erano a sua disposizione. Povera bimba, non mi sono mai chiesta che cosa facesse da sola dopo l'ora del tè. E nonostante abbia notato spesso, quando si affacciava a darmi la buonanotte, che aveva le guance di un bel rosso acceso e le dita arrossate, non ho mai pensato che il suo colorito fosse dovuto a una cavalcata al freddo attraverso la brughiera, ma semplicemente al calore del fuoco della biblioteca.